Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. Fabrizio stava sempre a Romagnano. Passava il tempo a confessarsi, a andare a caccia, a non leggere niente e a far la corte a una ragazza nobile. Alla duchessa quest'ultimo impegno di Fabrizio continuava a non piacere molto. E c'era un'altra cosa, anche se Mosca non ci dava peso. Gina, che pure con lui era assolutamente sincera in tutto, come se pensasse a voce alta, quando parlava di Fabrizio esitava, cercava le parole. «Se volete», le disse un giorno Mosca, «scriverò a quel simpaticone di fratello che avete sul lago di Como. Se io e i miei amici ci diamo un po' da fare, riuscirò a costringere questo marchese del Dongo a chiedere la grazia per il vostro Fabrizio. Se è vero, e mi guardo bene dal dubitarne, che Fabrizio è un pochino più su di quei giovanotti che passano la vita a portare a passeggio i loro cavalli inglesi per le strade di Milano, che razza di vita starsene a 18 anni senza far niente e con la prospettiva di continuare così in eterno. Se il cielo gli avesse almeno concesso una vera passione per qualche cosa, per qualsiasi cosa, anche per la pesca, io avrei tutto il rispetto per lui. Ma anche se gli concedono la grazia, che cosa farà a Milano? A una certa ora andrà a cavallo sul suo bel puledro che si sarà fatto venire dall'Inghilterra, poi, quando non saprà più che cosa fare, andrà a trovare la sua amante, ma vorrà molto più bene al suo cavallo. Io un'idea l'avrei, ma sono sicuro prima di tutto che se ve la dico voi incomincerete a strillare, e poi che mi darebbe un mucchio di pensieri e chissà per quanto tempo, ma è una pazzia che voglio fare per voi. Del resto, vorrei proprio che mi diceste quale pazzia non farei per un vostro sorriso. E allora? E allora? Noi abbiamo avuto come arcivescovi qui a Parma tre membri della vostra famiglia. Ascanio del Dongo, che ha scritto certi libri nel 1600... Fabrizio, nel 1699, e un altro, Ascanio, nel 1740. Se Fabrizio acconsente a farsi prete e a dar prova di una virtù di prim'ordine, lo faccio nominare vescovo da qualche parte e poi arcivescovo qui a Parma, sempre che la mia autorità resista, perché l'unica vera obiezione è qui. Ci vogliono molti anni per realizzare questo bel piano e io resterò al ministero abbastanza a lungo. Il principe potrebbe morire, potrebbe anche avere il cattivo gusto di mandarmi a spasso. Ma tutto sommato questa è l'unica possibilità che mi si offre di fare per Fabrizio qualcosa che sia degno di voi. Discussero a lungo. Alla duchessa quell'idea ripugnava. Dimostratemelo ancora, disse a Mosca, che per Fabrizio qualsiasi altra carriera è impossibile. Mosca glielo dimostrò, poi disse: quello che vi dispiace è che lui non possa mettersi una bella divisa, ma non posso farci niente. La duchessa chiese un mese di tempo per poter riflettere. Alla fine, con grandi sospiri, si arrese al buon senso di Mosca. La duchessa era molto sensibile alla gloria, non voleva che Fabrizio finisse come un fannullone qualsiasi, e accettò la proposta del suo amante. «Guardate», le diceva Mosca, «che io non pretendo che Fabrizio diventi un prete esemplare, come se ne vedono tanti. No, prima di tutto lui è un gran signore. Fate che il principe continui a pensare che io gli sono utile e Fabrizio potrà diventare vescovo e arcivescovo, anche se avrà voglia di rimanere un perfetto ignorante. Se voi vi degnerete di mutare la mia proposta in una decisione irrevocabile», aggiunse poi, «bisogna che Fabrizio non si faccia assolutamente vedere qui a Parma quando non è ancora niente. Di fronte a un successo troppo rapido la gente si scandalizzerebbe. Verrà a Parma solo quando avrà le calze viola e potrà mantenere un certo decoro. Allora tutti capiranno che vostro nipote deve diventare vescovo e la cosa non darà noia a nessuno. Se mi date retta, manderete Fabrizio a Napoli per 3 anni a fare i suoi studi di teologia. Durante le vacanze del seminario, se vuole, può andare a Parigi o a Londra, ma non deve assolutamente farsi vedere a Parma». Gina, a queste ultime parole, si sentì rabbrividire. Dopo quel colloquio, la duchessa inviò un corriere da suo nipote per dargli appuntamento a Piacenza. Naturalmente il corriere portava con sé una grossa somma e tutti i passaporti necessari. Fabrizio fu il primo a arrivare all'appuntamento. Corse incontro a Gina e l'abbracciò così forte che lei si mise a piangere. Era contenta che Mosca non fosse lì a vederla. Da quando amava quell'uomo, era la prima volta che provava una sensazione simile. A sentire i progetti che Gina gli aveva preparato, sulle prime Fabrizio sembrò molto scosso. Poi diventò tutto triste. Lui aveva sempre sperato che una volta aggiustata la faccenda di Waterloo avrebbe finito per fare il soldato. Ma ci fu una cosa che impressionò molto Gina e che confermò l'idea romanzesca che si era fatta del nipote. Fabrizio non era assolutamente disposto a ridursi a una vita da caffè in qualche grande città italiana. In principio, comunque, Fabrizio continuava a mostrarsi assolutamente contrario all'idea di farsi prete. Parlava di partire per New York, di farsi cittadino e soldato della Repubblica Americana. Che orrore! Non avresti modo di combattere e finiresti per ricadere nella vita da caffè, soltanto senza eleganza, senza musica, senza amore, gli disse Gina. Dammi retta, per te come per me, vivere in America sarebbe una tristezza. Gli disse che in America quello che adoravano era il dio dollaro e che bisognava portare rispetto alla gente comune, gente che con il suo voto può decidere tutto. Tornarono alla soluzione della Chiesa. Qualche giorno dopo si incontrarono di nuovo a Piacenza. La duchessa era molto turbata. C'era stata tempesta a corte. Il partito della Marchesa Raversi era sul punto di trionfare. C'era la possibilità che Mosca fosse sostituito dal generale Fabio Conti, capo di quello che a Parma chiamavano Partito Liberale. Gina raccontò tutto a Fabrizio. Una sola cosa non gli disse: il nome del rivale di Mosca. Poi ripresero a discutere del futuro di Fabrizio, considerando anche la possibilità che si dovesse fare a meno dell'autorevolissima protezione del Conte. «Va bene, passerò 3 anni al seminario di Napoli», disse Fabrizio. «Ma dato che prima di tutto devo essere un giovane gentiluomo, dato che non mi impegni a vivere come un virtuoso seminarista, questi 3 anni a Napoli non mi fanno paura. Non sarà certo peggio della vita che facevo a Romagnano. Sai che la gente per bene incominciava a trovarmi un po' giacobino? Mi sono accorto che non so niente, neanche il latino, neanche l'ortografia. Avevo in mente di rifarmi un'educazione a Novara. Vuol dire che studierò teologia a Napoli e lo farò volentieri. È una scienza complicata». Gina era felice. «Se ci mandano via da Parma», gli disse, «verremo a Napoli a trovarti. E adesso che fino a nuovo ordine hai accettato l'idea delle calze viola, Mosca, che conosce bene la situazione dell'Italia di oggi, mi ha detto di dirti un paio di cose. Puoi crederci o no a quello che ti insegneranno, ma non devi assolutamente fare obiezioni. Se qualcuno ti insegnasse le regole del whist, faresti delle obiezioni? Ho detto a Mosca che sei credente e lui ne è stato molto contento perché è una cosa utile in questo e nell'altro mondo. Ma se sei credente, non cadere nella volgarità di mostrarti inorridito quando parli di Voltaire, di Diderot, di Renal o di qualcun altro di quei francesi mezzi matti che hanno messo le basi del regime parlamentare. Parla nemmeno che puoi di quella gente, ma se devi proprio parlarne, fallo tranquillamente, con ironia. Ormai le loro idee sono state confutate da molto tempo, i loro attacchi non fanno più paura a nessuno. Devi credere ciecamente a tutto quello che ti diranno in seminario. Ricordati che ci sarà sempre qualcuno a prendere accuratamente nota delle tue obiezioni, anche delle più irrilevanti. Qualche piccolo affare di donne, se saprai condurlo con una certa abilità, te lo perdoneranno, ma non ti perdoneranno un dubbio che sia uno. L'età fa passare la voglia di far l'amore, ma aumenta i dubbi. Tienlo presente quando ti confessi. Ti daremo una lettera di raccomandazione per un vescovo che è il factotum del cardinale di Napoli. Parlane solo con lui, della tua scappata in Francia e del fatto che eri dalle parti di Waterloo il 18 giugno. Comunque non tirarla in lungo, cerca di minimizzare. Parlane soltanto perché un giorno non possano rimproverarti di averlo tenuto nascosto. Eri tanto giovane. Poi c'è un'altra cosa che Mosca ha voluto che ti dicessi. Se parlando con qualcuno ti viene in mente un'idea brillante, Un argomento che potrebbe cambiare il corso della conversazione, devi resistere alla tentazione di fare una bella figura. Sta zitto. Chi è furbo te la leggerà negli occhi la tua intelligenza. E quando diventerai vescovo, che sarà il momento di mostrarti intelligente. La duchessa, sempre appassionata a qualche cosa, sempre piena di attività, incapace di stare senza far niente, aveva più intelligenza di tutta la corte di Parma, ma le mancavano quelle doti di pazienza e di impassibilità che sono indispensabili negli intrighi. Ora, comunque, si era appassionata a seguire il gioco complicato della politica e incominciava anche a godere di un certo credito personale presso il principe. Clara Paolina, la principessa, fatta segno a un'infinità di onori ma chiusa nella prigione di un cerimoniale più che antiquato, era convinta di essere la donna più infelice del mondo. La Sanseverina le fece la corte e si sforzò di dimostrarle che non era poi così infelice. Il principe vedeva la moglie soltanto all'ora di cena e, a parte quella mezz'ora, passava settimane intere senza rivolgerle la parola. La signora Sanseverina cercò di fare in modo che le cose cambiassero. Gina divertiva il principe, soprattutto perché aveva saputo restare libera, indipendente. Anche se lo avesse voluto, lei non sarebbe mai riuscita a evitare indefinitamente di urtare qualcuno in quella massa di sciocchi che pullulavano a corte. Era questa sua assoluta mancanza di tatto che la faceva odiare dai cortigiani più volgari, tutti conti o marchesi, gente che disponeva in generale di 5.000 lire di rendita. Lei lo aveva capito fin dai primi giorni, e allora si era preoccupata soltanto di riuscir simpatica al principe e a sua moglie, la quale dominava nel modo più assoluto il principe ereditario. La duchessa, dunque, sapeva divertire il principe e approfittava dell'estrema attenzione che lui accordava a qualsiasi cosa lei dicesse per coprire di ridicolo i cortigiani che la odiavano. Ogni tanto la duchessa accennava a un suo progetto, quello di prendersi ogni anno qualche mese di vacanza per visitare l'Italia che conosceva così poco, per andare a Napoli, a Firenze, a Roma. Il principe la prendeva come una diserzione e non c'era niente che potesse spiacergli di più. Era la sua grande debolezza. Quando aveva l'impressione che disprezzassero la sua città, gli si stringeva il cuore. Si rendeva conto che trattenere la signora Sanseverina era impossibile, e la signora Sanseverina era di gran lunga la più brillante dama di corte. Cosa incredibile, data la pigrizia italiana, la gente tornava dalla campagna per essere presente ai suoi giovedì. Erano vere feste. La duchessa riusciva sempre a trovare qualcosa di nuovo, di eccitante. Il principe moriva dalla voglia di andarci a uno di quei ricevimenti. Ma come fare? Andare in visita in una casa privata era una cosa che né lui né suo padre avevano mai fatto. Era un giovedì sera, pioveva, faceva freddo. Si sentivano continuamente passare, rumoreggiando sul lastricato della piazza, le carrozze che andavano verso Palazzo San Severino. Il principe era molto nervoso. Gli altri si divertivano e lui, il principe, il signore assoluto, lui che avrebbe avuto diritto a divertirsi più di chiunque altro, doveva star lì a annoiarsi. Chiamò l'aiutante di campo. Bisognava aspettare il tempo di appostare una dozzina di uomini fidati lungo la strada che portava a Palazzo San Severino. Fu un'ora interminabile. Il principe era continuamente tentato di sfidare le pugnalate, di uscire così, senza nessuna precauzione. Finalmente poté fare il suo ingresso nel primo salotto della San Severina. Se un fulmine fosse esploso lì dentro, avrebbe fatto meno impressione. Man mano che il principe veniva avanti, in quei salotti rumorosi, pieni di allegria, si faceva di colpo un silenzio attonito. Occhi spalancati lo fissavano. Tutti gli invitati sembravano sconcertati. Solo la duchessa non aveva quell'aria stupefatta. E quando trovarono la forza di parlare, tutti pensarono soltanto a risolvere un problema di capitale importanza. La duchessa ne era informata di quella visita o era stata una sorpresa anche per lei? Il principe si divertì molto. E considerando quello che accadde alla fine, ci si potrà fare un'idea di come fosse tutto di primo impulso il carattere di Gina e del grande ascendente che lei si era conquistata sul principe, buttandola abilmente quei vaghi propositi di partenza. Stava accompagnando il principe alla porta E lui le parlava con molta gentilezza. Alla duchessa venne una strana idea ed ebbe il coraggio di esprimerla in tutta semplicità, come una cosa normalissima. «Se vostra altezza serenissima volesse dire alla principessa un paio di queste frasi deliziose di cui è tanto generosa con me, mi farebbe davvero felice, più felice di quanto mi fa ora dicendomi che sono bella. È che non vorrei assolutamente che la principessa giudicasse male il grande onore che vostra altezza mi ha fatto». Il principe la guardò fisso, poi rispose in tono brusco: «Pensavo di essere padrone di andare dove voglio». La duchessa diventò rossa, ma fu pronta a rispondere: «Volevo soltanto evitare che vostra altezza si muovesse per niente, perché questo giovedì sarà l'ultimo. Andrò per qualche giorno a Bologna o a Firenze». Tornò nel salotto. Tutti pensavano che ora il suo successo era al colmo, ma lei aveva azzardato una mossa che a memoria d'uomo nessuno a Parma aveva mai osato. Fece un segno a Mosca e lui lasciò il tavolo da gioco. Andarono in un piccolo salotto tutto illuminato, vuoto. «Avete avuto un bel coraggio», disse Mosca. «Non ve lo avrei davvero consigliato». Poi sorrise. «Ma in un cuore veramente innamorato la felicità rende più forte l'amore. E se voi partite domani mattina, domani sera vi seguo. Dovrò perdere un po' di tempo solo per quel maledetto Ministero delle Finanze. Sono stato proprio uno sciocco a prendermi quell'incarico. Comunque, se mi do da fare, in 4 ore si possono passare le consegne di un bel po' di conti. E adesso torniamo dagli altri, mia cara amica, e abbandoniamoci senza ritegno alla nostra frivolità ministeriale. Può darsi che questa sia l'ultima rappresentazione che diamo qui a Parma. Se si sente sfidato, quello è un tipo capace di tutto. Lo chiamerà dare un esempio. Quando tutta questa gente se ne sarà andata, studieremo il modo di barricarvi per stanotte. Forse la cosa migliore sarebbe che partiste subito per la vostra casa di Sacca, che ha il vantaggio di essere a una mezz'ora dalla frontiera». Fu un momento delizioso, per l'amore e per l'amor proprio di Gina. Guardò Mosca. Gli occhi le si riempirono di lacrime. Lui, un ministro così potente, con intorno quella folla di cortigiani che lo colmavano degli stessi onori dovuti al principe, lasciare tutto per lei e senza neanche pensarci. Quando rientrò nel salotto era davvero felice. Tutti le si inchinavano davanti. «Avete visto com'è cambiata?» sussurravano da tutte le parti, da non riconoscerla, lei che era così altera, così al di sopra di tutto. Ma adesso anche lei si degna di apprezzare l'incredibile favore che le ha fatto il principe. Verso la fine della serata Mosca le andò vicino. «Dovrei dirvi qualcosa». La gente che le stava intorno si fece subito da parte. «Quando è tornato a palazzo», continuò Mosca, «il principe si è fatto annunciare a sua moglie. Figuratevi lei. Le ha detto: voglio raccontarvi della serata che ho passato dalla Sanseverina, una serata davvero molto simpatica. La Sanseverina mi ha pregato di descrivervi come ha messo a posto quel vecchio palazzo fumoso». Poi il principe si è seduto e le ha descritto tutti i vostri salotti. Ha passato con la moglie più di 25 minuti. Lei piangeva di gioia. Malgrado tutta la sua intelligenza, non ha saputo trovare una sola parola per tenere la conversazione su quel tono leggero che Sua Altezza era dispostissimo a darle. Nonostante quello che dicevano di lui i liberali italiani, il principe non era affatto cattivo. D'accordo, aveva fatto buttare in prigione un buon numero di liberali, ma era stata la paura a farglielo fare. Ogni tanto, come per consolarsi di certi ricordi, diceva: «Meglio far fuori il diavolo prima che sia lui a far fuori noi». Il giorno dopo quella serata era tutto allegro. Aveva fatto 2 buone azioni. Era andato al giovedì e aveva parlato alla moglie. E a pranzo le parlò ancora. Insomma, quel giovedì della Sanseverina portò a una vera rivoluzione domestica. Ne parlò tutta Parma. La Raver si era costernata. Per la duchessa il successo era stato duplice. Aveva fatto qualcosa di utile per il suo amante e aveva potuto constatare che lui era più innamorato che mai. «Tutto per un'idea pazzesca che mi è venuta», diceva a Mosca. «Certo, a Roma o a Napoli sarei più libera, ma dove lo trovo, un gioco appassionante come questo? È a voi che la devo, la mia felicità».